Quindi insomma adesso aspettiamo di capire un po' l'evoluzione della questione sulla tassazione. One. Non è che devo fare già i mercati, perché lo sai che io da qua non vedo l'orario. Quante soddisfazioni mi dai? Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe meglio. Intanto complimenti per la trasmissione, siete molto simpaticissime. Così andiamo a salutare Deborah che ci chiama da Roma. Sono circondata da Deborah, buongiorno. Oggi sei assediata, sì. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Lo sapete cos'è che mi piace di più dell'oro? È che ne ho un sacco. Perché l'oro è così prezioso, zio Paperone? Perché è molto raro. Infatti posso vendere un pezzettino d'oro per un sacco di quattrini. E con l'oro si può anche fare una bella partita a dama. Ecco, è così che zio Paperone spiega i primi rudimenti di economia ai suoi nipotini. Certo, la sua è una filosofia tutta particolare, però apprezziamo l'impegno, ma ci chiediamo, a quanti di noi viene voglia di parlare di soldi, di risparmio ai più giovani, ai ragazzi e magari anche ai bambini? E poi, cosa dire? Sapremo trovare il modo giusto per farlo? Sì, però Deborah, dovremmo cercare di trovare il modo più corretto per parlare di educazione finanziaria, perché serve, è importante e ti dico che addirittura è un fattore protettivo per la nostra salute. Quindi l'educazione finanziaria serve ai grandi e soprattutto ai giovani, e per loro è particolarmente importante perché saranno loro le classi dirigenti del futuro. Allora noi ne parliamo oggi a Cuore Denari e non ci potrebbe essere un posto migliore per farlo, perché trasmettiamo, e lo abbiamo già detto in apertura, dal Festival dell'Economia di Trento, e quindi la nostra postazione in Piazza Pasi, l'invito è di venirci a trovare. Mi sta già facendo l'ok. Esatto. Allora andiamo. Anche altri là ci sono venuti a trovare, quindi noi ne siamo molto contenti. Classi dirigenti, crescita e bene comune, questo è il tema scelto per questa edizione del Festival. 4 giorni, come sempre, con un programma ricchissimo, incontri, eventi, convegni, e poi ci saranno anche tanti programmi di Radio 24 in diretta. Per quello che riguarda Cuore Denari, noi oggi la puntata la vogliamo dedicare alla nascita delle nuove classi dirigenti e quindi all'educazione finanziaria rivolta ai giovani. Potete appunto intervenire in diretta come sempre, anche se non potete intervenire qui a Piazza Pasi, ma il numero verde per rivolgervi a noi è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24. Misuratevi con noi, provate a pensare e poi siate pronti a raccontarci come affrontate le questioni di denari con i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri alunni se siete insegnanti. Qual è la domanda più curiosa o anche difficile che vi hanno posto e come avete risposto? C'è un tema che vi metterebbe in difficoltà o un tema in cui vi sentite particolarmente forti e siete voi a spiegarlo a noi? Vi invitiamo. 800 24 00 24. Noi quando parliamo di educazione finanziaria abbiamo dei punti di riferimento. Per quello che ci riguarda, è uno dei nostri preferiti, Antonio Caglielli, educatore finanziario di professione, che è venuto addirittura, si è spostato da Torino per venire qui da noi a Trento, per cui siamo doppiamente contenti per questo. Buongiorno Caglielli. Buongiorno, grazie a voi, grazie dell'invito, e non mi sposto soltanto io, chiedo di spostarsi a tutti, perché questo Festival dell'Economia è un momento da non perdere. Oltretutto è anche un festival molto vivibile, lo commentavamo anche prima a microfoni spenti, si può andare a tutti gli incontri senza perdere tempo per i trasferimenti da un posto all'altro, perché la città ha una qualità della vita, d'altronde il Sole 24, abbiamo fatto anche delle puntate, Nicoletta, ti ricordi, sul tema della qualità della vita. Trento vince sempre tutte le classifiche. Allora, educazione finanziaria, ma insieme ad Antonio Caglielli abbiamo il piacere di avere Mirko Labella, che è psicoterapeuta a Torino e responsabile regionale della SIPNEI, e poi tra poco vi diremo che cosa si nasconde. Buongiorno. Uno psicologo, uno psicoterapeuta a parlare di soldi. Esatto. E a parlare dell'importanza di educazione finanziaria per il nostro equilibrio. Esatto. Non solamente psichico, ma anche, vedremo, anche fisico, perché lo sappiamo che essere educati, competenti ed informati è un fattore protettivo. coltivo, lo è per la salute e lo è anche per i soldi. Buongiorno. Certo, buongiorno, buongiorno a tutti. Io partirei dall'acronimo SIPNE, che era oscuro, e la SIPNE è l'acronimo della Società Italiana di Psiconeuroendocrino Immunologia. È una parola molto lunga, ma esprime la complessità dell'essere umano, e quindi parlando di soldi si parla sicuramente anche di una dimensione sociale che ha lo stesso peso della dimensione biologica, della dimensione ambientale, di quella psicologica. Quindi i soldi sono in grado di agire in modo potente sul nostro stato di salute, sul nostro stato di malattia, in un nuovo approccio che è appunto la psiconeuroendocrinoimmunologia, che racchiude i tre pilastri della nostra salute, cioè il sistema immunitario, il sistema neuroendocrino e quello psicologico, e questi tre colonne di salute sono all'interno di un paradigma biologico, di un paradigma di gestione e consapevolezza emozionale che attiva il fisico, di un ambiente nel quale noi viviamo ed una dimensione sociale e politica nel quale rientra anche la finanza e l'economia. Insomma, questa scienza, questo si può definire così, è una branca della scienza, mostra come ogni emozione, ogni modifica del sistema immunitario neurologico, ogni modificazione del sistema ormonale abbia una relazione e un'azione sugli altri nel bene e nel male. Noi oggi cercheremo di farla avere verso il bene. Certo. Sai che ti dico che tutto il mondo è cuore denari, ne sono sempre più convinta, più andiamo avanti e più questa associazione ci viene facile appunto farla. A seconda degli argomenti che tocchiamo è molto facile appunto combinare i due aspetti. Antonio Caglielli, andiamo al tema dell'educazione finanziaria, non ce lo stiamo inventando oggi, anzi forse è addirittura quasi inflazionato e forse un po' troppo sulla bocca di tutti. Dopo il periodo dei crack finanziari si è iniziato a parlarne molto, quindi una decina di anni fa, quando tutti ricordiamo, molti italiani si sono scottati con i casi dei crack finanziari Parmalat, Cirio, i tango bond, i bond argentini, e si è capito come all'epoca fosse largamente impreparato il popolo dei cittadini di fronte alle scelte di risparmio che poi interessano tutti. In tanti si sono fatti successivamente promotori di iniziative per diffondere la conoscenza degli strumenti di risparmio e di investimento e di tutto ciò che attiene alla gestione della finanza familiare. Secondo però una ricerca dell'Istituto Rosselli promossa da Patti Chiari, risulta che l'Italia sia al 46esimo posto nel mondo per diffusione di educazione finanziaria. Nel ranking mondiale è un posto, direi, non soddisfacente, perché il nostro è un paese che comunque, nonostante la crisi, sta bene, civilmente parlando, insomma è un paese che fa parlare di sé per il suo Made in Italy, per tanti aspetti positivi. Come mai siamo così indietro, Caglielli? Ma ci siamo accorti un po' tardi, questo sì, però diciamo una cosa, al mondo il tema è diventato più importante con il venire della crisi, con l'aumentare della crisi, ma contiamo che ci sono 45 anni di esperienze, in America soprattutto, di educazione finanziaria, nate da, diciamo, dai prodromi e poi sviluppatesi sempre di più in tutti i settori. In America sono in questo senso avanti, ma ci sono anche stati altri problemi che erano avanti, per esempio la capacità di indebitarsi, che in America è sicuramente un problema oltre che un costume, e quindi c'è stato il problema di riuscire a far capire agli americani quanto pagavano per queste carte di credito di vario genere, ed è diventato un dramma già negli anni 90, e quindi ci sono stati dei programmi. Ci sono molte esperienze nel mondo. Sì, in Italia siamo arrivati piuttosto tardi e sicuramente in coincidenza con la crisi economica e finanziaria, ma non per quel motivo. Lì c'è stata un'accelerata, probabilmente è nato qualcosa prima per effetto di alcuni enti, diciamo, organismi istituzionali, nel senso che si è compreso come possa essere un motore della crescita economica e anche un motore dello sviluppo del sistema bancario. Ecco perché le prime iniziative sono nate in ambito bancario, con, diciamo, alcuni aspetti discutibili sicuramente inizialmente, ma c'è anche un po' di sospetto, come è possibile che una banca faccia educazione finanziaria, no? Comunque il conflitto di interessi viene, no vabbè, ma si può dire tranquillamente, anche perché le banche lo sanno, ma sono un po' sotto osservazione anche per queste ragioni. È proprio così, tuttavia è un percorso importante, bisogna farlo, e quindi anche queste iniziative hanno la loro importanza. Diciamo che occorrerebbe distinguere in questo senso tra quelli che sono i programmi informativi e formativi e quelli che sono i programmi educativi, sono qualcosa di estremamente diverso, e infatti le esperienze straniere spiegano proprio come ci siano stati dei risultati molto diversi a seconda di quale sia stata l'impostazione. Ad esempio, il caso americano è molto emblematico in questo, perché intorno al 2003-2004 vide nascere, attraverso un atto federale, alcune agenzie federali che erano coordinate con i dipartimenti del Tesoro per migliorare il livello di educazione finanziaria. Questa indipendenza che dicevamo è stata garantita proprio in questo senso. Un'altra esperienza molto bella, molto significativa in Australia, cui io ho guardato sempre con grande favore, è stata quella che non si è più concentrata sulla conoscenza degli strumenti, sulle conoscenze, sull'aspetto cognitivo, ma su quello comportamentale. Mm-hmm. Ricordo una frase introduttiva di questo programma che disse: dobbiamo far cambiare la mentalità, il pensiero, se non cambia questo non c'è niente da imparare. E lo trovo molto mio. Tra l'altro, Nicoletta, lo sai che Antonio Caglielli, prima di fare l'educatore, lavorava in banca? Sì. E poi è passato dall'altra parte della barricata. Io in un'altra occasione gli ho chiesto le ragioni di questa scelta, che hanno a che fare con la sfera personale, però è stato un salto, immagino, anche abbastanza interessante, diciamo, trascurando l'aspetto personale, andando a quello professionale. Sì, molto bello, molto bello. Bello, quindi è contento di questa scelta. Sono contentissimo. Tornerei indietro e la rifarei. Ah, ecco. Allora, tra l'altro, pensando ai giovani, rispetto a questo quadro nazionale ma anche internazionale che abbiamo tracciato fino a questo momento, viene da chiedersi come fare per far partire i giovani con il piede giusto, in modo che quando saranno la nostra futura classe dirigente o comunque cittadini adulti siano più consapevoli. La scuola ce la fa? Questa è una bella domanda. Ci sono molti programmi a livello nazionale, ma sembra che non si faccia mai abbastanza, no? E quindi questa educazione finanziaria rivolta alle giovani generazioni, al momento, guardando a quello che abbiamo attorno, è soddisfacente? No, c'è tanto da fare. C'è tanto da fare, si sta facendo tanto. Tutti i programmi, ad esempio la nascente Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio, promossa dall'ABI di recente. Esatto, punta proprio sui giovani, sui ragazzi. Come si raggiungono i giovani? Direttamente e indirettamente. Quindi è importante parlare alle famiglie. Potremmo trovarci in una posizione addirittura di un ragazzo, come dire, che si sente dissociato tra una realtà virtuosa a scuola dove spiegano delle cose e la famiglia che invece ha dei comportamenti su un altro piano. Quindi è importante raggiungerli in tutti i modi, ed è importante raggiungerli nel modo giusto, con le parole giuste, secondo dei target estremamente diversi per età. L'età, diciamo, infantile, adolescenziale, eccetera, sono estremamente diversi nei linguaggi, nei contenuti e negli obiettivi che ci si può dare. Però è importante farlo, lo dicevamo, loro sono davvero il motore di quello che succederà. Ma sono soprattutto, dagli anni 80 in avanti, dei grandi consumatori, diretti e indiretti. Loro sono il motore dell'economia. Da uno studio si diceva che una buona parte della crisi è stata dovuta anche a una diminuzione dei consumi dei ragazzi, direttamente, ripeto, indirettamente, perché nelle famiglie ha cominciato ad arrivare questa crisi e si è cominciato a discutere male di denaro, e questo con tutti i risvolti, tutte le conseguenze che avevamo. Sì, in effetti Caglielli ci porta su un tema che con Deborah abbiamo già affrontato, e cioè la difficoltà dei grandi di affrontare con i piccoli il tema del denaro, che da sempre è stato considerato un tema da adulti. E quindi, soprattutto oggi in cui le famiglie si trovano a gestire e subire la crisi, tante volte non sono preparate per spiegare questa situazione di difficoltà ai ragazzi o ai bambini. L'atteggiamento più comune è cercare di soffrire, stringere i denti e di evitare che i ragazzi o i bambini respirino quest'aria di difficoltà. È un atteggiamento di tutela, e questo lo chiedo al dottor Labelle, che nasconde un po' anche l'incapacità degli adulti di trovare le parole giuste per spiegarle. La stessa cosa capita con, ad esempio, con l'educazione sessuale, piuttosto che con anche la prevenzione di alcuni tipi di dipendenze. Si ha paura di affrontare il tema, forse perché non si è adeguatamente preparati, e allora lo si maschera. Il denaro è sicuramente un tema di questi. Assolutamente, il denaro è uno di questi. In psicologia c'è un costrutto che si chiama la profezia che si autoavvera, quindi io penso qualche cosa che poi si avvera. Quindi parlare di tossicodipendenza, magari con mio figlio, dipendenza piuttosto che di argomenti difficili, fa sì che nella mente del bambino si materializzi poi quel desiderio, e quindi il genitore pensa magari di essere lui ad aver messo in testa al bambino che sono così. Allora sicuramente sono argomenti difficili, e un altro aspetto importante secondo me è il fatto che i genitori stessi sono confusi, sì. Loro per primi non sanno e quindi non affrontano la tematica in un modo sereno, perché ricordiamo sempre che la dimensione più giusta per far apprendere un bambino è la dimensione del gioco e non la dimensione dell'esame, piuttosto che insomma il terrorismo diffuso di cui insomma almeno io sono stato vittima durante alcuni percorsi di formazione quando ero più giovane, e questo sicuramente comporta poi il saper riconoscere che l'essere umano è un animale che sta in branco, e quindi nasce la disuguaglianza, cioè non nasce da adulti, già da piccoli, già all'elementare, già all'asilo, chi ha dei giocattoli e chi non ce li ha. Sì. Chi veste una griffe piuttosto che chi non ce l'ha viene emarginato dal gruppo. Questo nel cervello attiva quell'allarme sulla disuguaglianza, perché significa se io non sono nel gruppo sono morto. Pensiamo a chiunque di noi isolato, se avesse anche semplicemente una colica renale e fosse emarginato da tutti, senza neanche un medico, un infermiere, qualcuno che lo cura. E allora quello vuol dire morte per il cervello. Ecco perché la disuguaglianza è qualcosa che fa davvero male al cervello, e quindi ci sono adesso ormai ricerche, perché abbiamo delle nuove tecnologie che ci permettono di vedere il cervello in azione, tipo risonanza magnetica, e allora si riesce a capire che la disuguaglianza attiva le stesse aree che sono le aree del dolore fisico. Quindi è come se io mi dassi una martellata. Il fatto di subire un licenziamento, di non sapere come arrivare a fine mese, il fatto di dover avere un debito e non sapere come pagarlo, attiva nel cervello le stesse identiche aree che sono le stesse aree del dolore, come se mi tirassero un pugno in faccia. Io lo posso confermare dai messaggi che arrivano, che in qualche maniera qualcuno, almeno non lo fa, qualcuno degli ascoltatori contesta l'impostazione che stiamo dando alla trasmissione di questa mattina, nel senso di dire: è inutile che parlate di educazione finanziaria quando non c'è trippa per gatti, quando in questo momento si fa fatica ad arrivare alla fine del mese, per cui sono tutti argomenti che rimangono un po' alti per noi, e quindi non so se condivide. Caielli, invece dove manca l'educazione finanziaria, leggevo, e dove c'è crisi, la crisi è più dura. Certo, non lo condivido, con tutto rispetto per le persone che sicuramente hanno difficoltà, che peraltro devo raccontarvi anche, e sono il nostro pane quotidiano, perché di mestiere, nell'occuparsi di educazione finanziaria, si ha a che fare con nuove povertà, famiglie con disagi, grandi disagi, famiglie che perdono lavoro, famiglie che hanno degli shock finanziari continui, quindi è il nostro pane. Noi non parliamo di come investire i soldi, i massimi sistemi, okay. Ecco, infatti. E, infatti su questo poi magari diciamo qualcosa su che cos'è l'educazione finanziaria da questa prospettiva. No, non sono d'accordo, in questo senso che la prospettiva non è quella di diventare ricchi e crescere nei guadagni, la prospettiva è quella di riuscire a usare il denaro nel modo più utile a noi stessi, a ognuno di noi, perché siamo tutti molto diversi, e quindi essere, con una frase molto da spot, più ricchi con gli stessi soldi, e di farcela. E questo dà molta fiducia, con Mirko ci siamo già confrontati su questo tema. La capacità di gestire il denaro con efficienza, poco denaro, dà estremamente grande fiducia alle famiglie, alle persone. Perché sì, se posso integrare, si aumenta il potere di controllo che la persona ha su una minaccia che, certo, è l'assenza di denaro. E quindi vorrei dire, anch'io dissento anch'io con tutto il rispetto verso chi scrive, in realtà si tratta proprio di riconoscere, l'educazione finanziaria non passa per la gestione economica, passa per il riconoscimento e l'accoglienza della montagna di dolore che si sta riversando su di noi. Allora, chiedo a Caielli e alla Bella, dateci concretamente, formulate un invito per i nostri ascoltatori. Chiamateci oggi e noi vi aiutiamo concretamente a Caielli. Mi piace pensare a una cosa bella, a spiegare ai nostri figli come risparmiare qualche soldino e quando iniziare a farlo. E per me il senso degli acquisti, quindi quanto c'è di noi stessi in quello che compriamo. Benissimo. 800 24 00 24, e quindi la crisi, soprattutto la nostra salute, la nostra serenità, il nostro equilibrio passa attraverso e anche la gestione dei soldi, ma noi siamo a Cuore Denari apposta. E certamente passa anche attraverso il racconto della giornata di borsa tra poco. Cuore e Denari. Soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi, ti danno soldi. Ce la vogliamo ascoltare? cantare tutta? Perché no, qua piace. si balla nello studio di Cuore e Denari al Festival dell'Economia di Trento. Sì, stiamo parlando di come l'educazione finanziaria, saperne di più, il gestirci meglio, ci faccia anche stare meglio. Ma vogliamo essere molto concreti e per questo abbiamo chiesto ai nostri esperti di formulare una domanda o soprattutto di far capire a noi e ai nostri ascoltatori concretamente come possono aiutarci. E partiamo da uno stimolo che può farci riflettere e toccare con mano, un po' entrare nelle nostre famiglie e capire che questi che sembrano temi, come ci stanno scrivendo alcuni ascoltatori, molto alti, molto astratti, in realtà sono il nostro pane di tutti i giorni. Dottor Caielli. Sì, mi piacerebbe sapere dagli ascoltatori. Tanto qua c'è la donna di cuore, perché questa cosa la appassiona. Mamma mia, che tanto, paura. Tanto. Mi piacerebbe tanto chiedere agli ascoltatori una cosa. Quali sono le spese che gli danno più fastidio, fanno più male, con cui hanno più rabbia o qualche emozione più o meno positiva? Oppure al contrario, quali sono quelle più belle da sostenere? Allora, facciamo una cosa, un blitz, e chiediamo in diretta agli ascoltatori che sono in diretta, che vorrebbero loro fare delle domande a noi, ma adesso track, li freghiamo e cominciamo con Giorgio da Milano. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, salve. Sono un po' impreparato nella domanda, diciamo. Comunque, Prima faccia la sua e poi dopo magari ci riflette e risponde anche a noi. Ci dica. Sì. No, io volevo fare semplicemente due considerazioni velocissime. La prima è che, a mio giudizio, come diciamo, la scuola italiana, come quella negli Stati Uniti, dovrebbe sin dalla più tenera età educare diciamo i bambini e comunque poi diciamo anche in età adulta le persone a gestire diciamo i propri risparmi, la propria economia, a partire diciamo dal bilancio familiare e quindi diciamo dall'acquisto delle materie prime giorno per giorno, sino ad arrivare a come posso dire, argomenti un po' più delicati in età adulta, che riguardano non so la gestione delle imprese o anche la finanza moderna, che sappiamo adesso essere una fetta importante dell'economia generale. Ma Giorgio, ad esempio, mi scusi, così poi fa la seconda domanda, lei ad un bambino, iniziamo proprio, si dice la prevenzione inizia da piccoli, anche l'educazione in erba, che cosa proporrebbe? Che cosa insegnerebbe a un bambino per iniziare? Non so. Proporrei innanzitutto, veramente, perché diciamo di mercati ce ne sono un'infinità. Partendo dalle materie prime, quindi dall'acquisto diciamo della merenda, quale può essere l'acquisto della merenda? Non so, io consiglierei ai maestri, ai professori, di iniziare da lì, cioè di iniziare ad introdurre dei concetti, quali possono essere la domanda, l'offerta, l'andamento dei prezzi, a partire dalla merendina che loro c'è il rischio che gli rimanga un po' di traverso. Giorgio raccogliamo volentieri questo suggerimento. Sai che stavo pensando a questo modello americano che inseguiamo sempre, dopodiché sappiamo che là ci sono degli estremi, o c'è il super virtuoso dell'alimentazione ma c'è anche l'obeso, così come nei soldi non sono poi così convinta che siano il modello universale, no? Perché se siamo ancora in questo tunnel di crisi, ricordiamoci che è arrivata da là, perché là si sono indebitati fino a sopra il collo pur di acquistarsi una casa con mutui insostenibili, per cui non sono poi così convinta, Antonio Caielli, che questo modello americano, dove c'è un certo tipo di educazione finanziaria, sia quello ideale. No, infatti credo che l'ascoltatore, se ha in mente qualcosa che ho in mente io, stia facendo riferimento a dei programmi informativi che hanno dato parecchi risultati, parecchi insuccessi. Nel particolare ricordo uno studio che evidenziava come un'interrogazione fatta ad alcuni target di persone, liceali, studenti liceali, primi ministri dell'economia e delle finanze e tassisti in America, evidenziò come tra tutti il target più bravo di tutti era quello dei liceali, poi venivano i tassisti e gli ultimi erano i ministri, che non erano in grado di calcolare il costo del denaro delle loro carte di credito. Quindi allora, a volte in questo bisogna fare molta attenzione, come dicevamo, c'è prima un lavoro sulle emozioni, un lavoro sugli atteggiamenti e poi c'è le informazioni. Questo significa che al contrario si può indurre ad esempio a un eccessivo ottimismo, si può indurre in errore perché pensiamo di avere una conoscenza talmente sicura del mercato che rischiamo di più, e questo non va bene. Quindi nell'educazione finanziaria c'è un'educazione a rischio, che è un percorso estremamente complesso da costruire e che va iniziato anche questo da quando siamo bambini. In questo mi permetto ancora di aggiungere questo di Giorgio. Giorgio, bisogna fare attenzione perché il concetto di domande e offerte è importante, ma diciamo che ci sono, arriva forse un pochino dopo. Ci sono altri concetti che vanno passati ai ragazzi, per esempio quello sul risparmio, per esempio quello sul fatto che non sia soltanto il denaro di per sé a contare, ma quello che significa, quindi lo sforzo lavorativo dei genitori che sono fuori da casa, lontani dalla famiglia e si sottraggono al bene dei figli per ragioni di sostentamento. Diciamo con le parole giuste, senza colpevolizzare su questo, così come le esigenze quotidiane. Allora come si costruisce un bilancio familiare, di che cosa è fatto? Ecco, forse prima queste cose, poi la domanda, l'offerta, le azioni, le cose magari le vediamo. Un altro momento. Rodolfo su Twitter risponde alla spesa che dà più fastidio e invitiamo naturalmente anche voi a farlo all'800240024. Per Rodolfo è dover affrontare l'IMU. 16 di giugno. Sì. 1500 euro, quindi avrà la sua seconda casa, perché come sappiamo al momento la prima non la paga, però ecco. Su quello però voi oggi ci aiuterete anche in qualche modo a digerire queste spese che ci stanno andando di traverso, con una gestione serena delle nostre spese? Sì, lo facciamo, poi vi mandiamo la fattura a va casa. Bene, molto bene. Michele ci racconta, io e i miei piccoli spiego in termini tipo, credo che sia straniero Michele perché ha fatto qualche errore grammaticale, ma non per dire che sto facendo fatica a leggere il messaggio, giocattoli tipo una russa vale 5 gelati, per fargli capire Caglielli, va bene? Bravo. Per esempio un esempio di molto bello e in parole semplici, perché mi piace pensare a un modo di comunicare semplice e intuitivo. Ecco, io questa la chiamo la ginnastica finanziaria. Che cos'è la ginnastica finanziaria? È dare un valore alle cose che hanno anche un valore economico, ma che sia un valore che possiamo spostare da un bene all'altro. Molto importante, bravissimo, complimenti. Benissimo. Andiamo a Maria, ci chiama dalla provincia di Chieti e poi ci spostiamo ad Ancona. Rimaniamo nel centro Italia perché tu sai che a noi piace molto presidiare il centro Italia. Molto. Maria, buongiorno. Buongiorno. Un insegnante, sì. Buongiorno, sì, sono un'insegnante, insegno nella scuola primaria e ho le quinte e confermo, voglio dare la mia testimonianza, effettivamente spesso i bambini manifestano curiosità e interesse per le questioni finanziarie, interessati anche alle forme di risparmio addirittura degli uomini cosiddetti primitivi, quindi effettivamente io poi insomma, ho sempre risposto adeguatamente e ho aspettato poi in quinta di leggere loro il libro di Vaciago, L'economia è una bella storia, ed erano veramente molto molto interessati, purtroppo mi sono infortunata e quindi la prosecuzione della lettura purtroppo non è stata l'ha possibile. Dovuta sì. Maria, complimenti. Diciamo complimenti anche ai bambini perché effettivamente sono davvero molto, molto curiosi. Sì, molto. E volevo anche chiedere, siccome l'argomento mi appassiona molto, vorrei farne oggetto di una sperimentazione, magari anche tramite un dottorato di ricerca. Volevo chiedere ai professori ospiti se effettivamente questa mia idea può essere insomma degna di approfondimento, anche l'esperienza, voglio dire, o no. Maria, allora Antonio Caglielli annuisce, quindi sicuramente sì, Maria ha fatto centro, li ha conquistati, sono qua tutti belli soddisfatti. La bella, Caglielli è la bella. Io ho speranza, posso azzardare questa. Adesso facciamo questo, magari proviamo a metterla in contatto con delle persone che conosciamo, Maria, poi valutiamo appunto quali sono le persone adeguate a questa sua richiesta. Per quello che riguarda, complimenti alla signora Maria, complimenti, assolutamente sì, perché che la prima rivoluzione da fare è quella culturale e quindi parte esattamente nell'età dei bambini, parte con la dimensione del gioco, parte con una capacità di responsabilizzarli partendo proprio dalla curiosità, che è la prima cosa che funziona. Il compito molto importante che hanno gli insegnanti, soprattutto con i bimbi delle primarie, è far capire la differenza tra c'è valore e valore. Allora il valore che uno ha perché ha più giocattoli degli altri, o il valore che uno inizia ad avere come persona, perché in quell'età il cervello inizia a svilupparsi se si costruisce un'identità personale, un valore personale che poi si porterà avanti nel tempo, e anche quello è un tassello molto importante di tutto quello che riguarda la salute e la malattia poi in futuro per quel bambino quando crescerà. Quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è la spesa che vi pesa di più. Vorremmo chiedere anche ai genitori che hanno bambini come riescono a rispondere a mamma perché non me lo compri. È una domanda tormentone e molti genitori alla fine stremati cedono, ma questo alla fine può essere non sempre educativo, d'altra parte non si può sempre dire di no. Insomma, trovare la formula per far capire ai ragazzini il valore dei soldi passa attraverso delle piccole scelte quotidiane. Certo. 800 24 00 24, mamma perché non me lo compri, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Cuore e denari. Eccoci ritrovate in diretta, anzi ritrovati, perché oggi lo studio di Cuore e Denari in diretta dal Festival dell'Economia di Trento è molto affollato e stiamo parlando appunto in un certo qual modo anche del tema del Festival dell'Economia, che è dedicato alle nuove classi dirigenti che governeranno il bene comune e quindi a come si possono preparare anche attraverso l'educazione finanziaria coloro che un domani si prenderanno cura delle nostre città e delle nostre dell'amministrazione pubblica. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Abbiamo lanciato ai nostri ascoltatori un po' la provocazione. Mamma, due domandoni. Mamma, perché non me lo compri? E quindi come rispondete, come gestite anche queste situazioni che qualche volta esplodono in situazioni anche imbarazzanti, perché ci sono dei bambini che possono mettere anche un po' in difficoltà. E quindi l'altra domanda che era, Nicoletta? L'altra domanda che è stata suggerita da Antonio Caielli era qual è proprio la spesa che vi pesa di più, e molti stanno rispondendo con tweet. A parte le tasse, dobbiamo dire, o dottor Caielli o vale tutto. Però è interessante poi le tasse, col bene comune di cui parliamo oggi, che noi dovremmo pagare per il bene comune, per essere tutti più soddisfatti dei servizi che abbiamo attorno, invece quelle ci risultano un fastidio, è incredibile, forse perché non ne vediamo l'effetto. Ma devo dire della mia esperienza, tutte le volte che in aula facciamo lavorare i ragazzi, gli adulti, chiunque, ecco, le tasse non sono la spesa che fa più male, non sono quella che viene più in mente, siamo proprio in una finestra temporale forse in cui diciamo ci urta di più, ci fa star più male, perché c'è la scadenza, però questo che cosa serve? Serve a pensare una cosa, cioè che l'atteggiamento di spesa nei confronti di tutto quello che compriamo non è di tipo razionale, è di tipo altamente emotivo. Io ho scoperto, anche grazie a Mirko Labella, ma in generale un debito nei confronti della psicologia che mi ha aiutato a capire molte cose. L'atteggiamento finanziario è il prodotto di influenze di carattere culturale, di carattere sociale, antropologico anche, ma soprattutto di questioni di carattere genetico e quindi anche psicologico. E quindi questo è molto importante, perché i nostri atteggiamenti sono estremamente irrazionali, molto emotivi. E allora quando le persone descrivono le proprie spese gli vengono in mente quelle più alte, quelle con cui hanno i riferimenti quotidiani, ma sfuggono ad esempio quelle piccole, che saranno piccole, saranno automatiche qualche volta, ma sono importanti un bilancio familiare. E allora purtroppo mi faccia qualche esempio di spesa piccola per lei. Noi abbiamo... di oggi, quali spese piccole lei ha affrontato e che sapendolo se le segna, le ricorda, fa una sorta di diario finanziario, esatto. Come il diario nutrizionale alimentare che suggeriscono i nutrizionisti. Bravissimo, è proprio un esercizio che facciamo fare. Ci sono spese che sfuggono, nessuno ricorderà mai quanto spende per dare da mangiare a un animale domestico. Bravo, infatti io ho il cane. Ha ragione, mi ha beccato già la immona e magna. Nessuno ricorderà mai i soldi dati per i regali, eppure sono una componente importante, no? Che sappiamo di fare in un certo spazio temporale, che è quello legato al Natale o alle feste comandate oppure ai compleanni. Sono spese che sfuggono, i parcheggi sfuggono, i biglietti i miei 3 o 4 caffè al giorno sfuggono sempre, non sfuggono al momento in cui lo scriviamo, però sì, sono un pensiero. E noi non riusciamo a fissare l'attenzione, ma dobbiamo farlo, e l'educazione finanziaria fa questo, fa fissare l'attenzione sul momento del pagare. che è un momento strategico dove noi abbiamo disimparato a attivare certi pensieri. Quello che si fa è invece di riconoscere, sottolineare quei pensieri e agire su quei pensieri per far crescere la consapevolezza. Quindi mi porti in un negozio con lei, noi sì. Guardiamo. Non so andiamo... se poi ha piacere di stare tanto perché diventerebbe lunga la cosa. E lei al momento che prima sceglie il prodotto, sì. Quando sceglie il prodotto cosa si chiede? Ne ho davvero bisogno? Faccio di più, io non faccio mai inibire nessuno su questo. Una volta che è stata affrontata la spesa, cerco di far ragionare su che cosa è avvenuto. Sa come lo faccio? In modo molto divertente, lo facevo ieri con dei ragazzi della scuola. Cerco di pagare in un altro modo. Lei, se dovesse pagare, come lo farebbe? Mettendo la mano, avanzando col braccio, mettendo i soldi in mano. Lo sto facendo materialmente, esattamente, i radioascoltatori. Ecco, tirato questo gesto. 5 euro prendiamo, dai. Le porte della casa. Se volete vi rilascio. Ma... allora, no, noi prendiamo tutto. Allora, noi paghiamo con questo gesto. Ecco, io chiedo a tutti di non farlo più e di provare a fare in un altro modo. E cioè, ad esempio, non so, di piegarli, no? Piegarli in questo modo, cioè la parte destra la pieghiamo al centro, la parte sinistra la pieghiamo al centro, poi le pieghiamo in questo modo. E di darli non più in maniera orizzontale, ma darli dall'alto. Succedono delle scene nei negozi esilaranti, perché i negozianti sono davvero stupiti da questa cosa. Però è importante perché... nel momento in cui noi mettiamo i soldi dall'alto, in questo modo come se fosse in una scheda elettorale, noi stiamo dando un valore ai nostri soldi, noi stiamo votando che tipo di scelta abbiamo fatto, nei nostri confronti ma anche nel mondo dell'economia che sta di là. Ma ti piace? Dai, io adesso vado, sì. Vado a adesso prendere ti porto il caffè, qua al negozio. Faccio tutto un altro peccato, perché io l'avevo già, mi sono già comprata Giorgio. Un fard. Giorgio, preparati. Averlo saputo, facevo tutta stamattina. Giorgio, prepara la macchina fotografica, il tuo iPad, che così immortaliamo Nicoletta che vota il suo acquisto. Allora, abbiamo lanciato la domanda prima su come i genitori rispondono ai figli quando si vuole qualcosa che un genitore non vuole concedere. Salvatore, dalla provincia di Salerno, proprio ieri, guarda caso, si è trovato in questa situazione. Adesso Salvatore ce la racconta in maniera telegrafica, no, non telegrafica, abbiamo ancora tre minuti. Giorgio sì. Ci fa del terrorismo psicologico, ma noi ce la facciamo. Salvatore, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci, allora... ci racconti. Allora, preliminarmente io sono stato da diversi punti di vista, come dirigente scolastico, come professore di economia, come genitore di due bambini di 6 e 4 anni. Preliminarmente le spese che non digerisco sono quelle relative alla medicina, alla salute, perché come professore di economia non posso che ritenere giuste imposte e tasse perché servono a fornire quei servizi. Il problema si pone quando quei servizi te li devi nuovamente pagare, due bambini faringei, 80 euro ai due bambini, credo che sia del tutto ingiusto che io paghi nuovamente un qualche cosa che ho pagato con le tasse. Veniamo al problema della bambina. La bambina ieri aveva visto un bellissimo paio di scarpe, però peccato che non erano quelle che lei vede nella pubblicità in televisione. Mi ha fatto letteralmente la pazza nel negozio perché voleva quella, piangeva a dirotto e non me la sono sentita in quel momento di non accontentarla e di portarla via. Semplicemente perché, vedendo che sopra io, vedendo la pubblicità, dove chiaramente insomma ecco, l'educazione dovrebbe partire da lì, non bombardare i ragazzi continuamente con dei messaggi che inevitabilmente incidono nella loro psiche, ha voluto per forza quel paio di scarpe là. È uscita e ce l'ha fatta Salvatore, quindi no, l'ha dovuta prendere. Sì. Comprate, Salvatore, allora. Guardi, lei bellissima telefonata, sentiamo purtroppo tecnicamente male, ma la bella. Sì, allora qui le dita le scrocchio io perché questi sono gli effetti incredibili della pubblicità. Infatti la pubblicità nell'ultimo periodo si è evoluta e c'è una nuova disciplina che si chiama neuromarketing, che nasce dalla fusione tra le neuroscienze e quindi la capacità di leggere nel cervello con strumenti di risonanza magnetica e il potere dei brand, cioè delle marche, degli acquisti. Allora, se si attivano questi meccanismi profondi del cervello, la pubblicità è in grado di attivare queste risposte, come queste della bambina, che è stata assolutamente incontenibile. Allora, una bambina che piange attiva nell'adulto un meccanismo meccanico, di nuovo automatico, di accudimento, per cui il papà, pur di non sentir piangere quel lamento che evolutivamente non dovrebbe starci, si è trovato a cedere rispetto all'acquisto. Insomma, la pubblicità arriva, ci condiziona, ci fa praticamente mettere il pilota automatico, esatto. E noi scegliamo sulla base di questo navigatore, diciamo, esatto. Così, ma noi possiamo disattivarlo. 800 24 00 24. Stop la prima non parte, non alle telefonate, no, continuate anzi a chiamare, vi sentiremo dopo il giornale radio. Poi ci raggiungeranno altri due giovanissimi ospiti che ci racconteranno la loro esperienza di educazione finanziaria. Andrea Di Ancona, ovviamente essendo anconetano, però lui aspetta con pazienza il conterraneo. Ci sentiamo tra un po'. Cuore e denari. Eccoci ritrovate al Festival dell'Economia di Trento, siamo in diretta con Cuore e Denari, stiamo parlando con Nicoletta Carbone di educazione finanziaria, associando anche, come sempre si fa a Cuore e Denari, i temi economici a quelli del benessere. Non parliamo di educazione finanziaria dal punto di vista dei massimi sistemi, come scherzavamo all'inizio, ma abbiamo invitato i nostri ascoltatori a raccontarci nella pratica concreta di tutti i giorni cosa fanno in famiglia e soprattutto come gestiscono questa questione con i loro figli. Leggiamo qualche messaggio perché abbiamo lanciato, come sempre facciamo, i domandoni. Alessandra ci scrive: con le mie figlie sarebbero precipitate, altro che pilota automatico, più provavano a fare i capricci soprattutto nei negozi, meno ottenevano. Confermo che funziona. Commenteremo con i nostri si esperti. Si riferisce all'ascoltatore precedente che invece ci ha raccontato di un caso che si è verificato proprio ieri con la sua bambina, non l'ha spuntata, ha dovuto comprare questo paio di scarpe piuttosto costose. Emanuela da Pisa invece racconta come gestisce e come segna tutte le spese quotidiane su un telefono, un piccolo foglio Excel, segno tutte le spese giornaliere per categoria, tengo sotto controllo, riesco a fare anche la media. Poi ci si diverte anche. Avresti mai pensato che potesse esserci questa evoluzione? No, io devo dire che non ce la farei, ecco, diventerebbe per me davvero difficile, però magari le lascio a te, te lo dico a te. Deborah, ho preso un caffè, segna. E io ti tengo la contabilità personale. Allora, poi commenteremo tutto questo con i nostri ospiti che abbiamo salutato prima, Antonio Caglielli e Mirko Labella, ma adesso, come vi avevamo preannunciato, abbiamo due giovanissimi ospiti che sono venuti a trovarci qui nel nostro piccolo studio allestito in Piazza Pasi, perché per il secondo anno consecutivo il Festival dell'Economia di Trento, insieme all'editore La Terza, responsabile della progettazione e organizzazione del Festival dell'Economia, è in collaborazione col MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, per l'Autonomia Scolastica, Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, è stato bandito, tanti organismi, è stato bandito il concorso nazionale dal titolo Economia, la M è maiuscola, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane. Scopo del concorso è quello di promuovere la diffusione di una cultura economica tra gli studenti in modo da, come abbiamo detto noi oggi in trasmissione, favorire un atteggiamento più critico e responsabile di fronte ai fenomeni della realtà economica in cui tutti viviamo. E noi li abbiamo qua. Due, un vincitore. Belli e bravi. No, bellissimi, giovani, veramente ragazzi responsabili, ragazzi a posto. Caterina Alberto, che salutiamo. Caterina, tu non hai vinto? No, non ho vinto. Ma il prossimo anno ce la farai. Certo. Ma a parte che lei sta facendo la maturità, quindi se poi il prossimo anno avrà la chance. Lorenzo Borga invece è un vincitore. Sì, ce l'ha fatta. In quarta. Esattamente. Liceo, istituto tecnico, che cosa fai? Liceo Prati, quindi seconda liceo per me. Benissimo. Allora, in che prova vi siete cimentati per aggiudicarvi questo posto così in alto della graduatoria di questo concorso? Caterina. Era un esame con 40 domande chiuse, completamente crocette, poi due temi, c'erano da fare un dibattito e poi un commento personale. E oltre quello che a me è piaciuto molto, oltre al test in sé, è stata la preparazione che è stata fornita da una professoressa del nostro liceo. Ed è stato veramente interessante perché ci ha avvicinato a molte tematiche a cui purtroppo non viene lasciato spazio durante gli orari di scuola. Facci degli esempi. Abbiamo letto un sacco di articoli, editoriali, commenti. Sole 24 ore a go-go. Sì, sì. Esattamente, o vari studi sull'economia, sulla politica economica, sulla finanza, sul ruolo delle donne. E il tema di quest'anno era le classi dirigenti e l'importanza, se necessario, che continuino ad esserci nella nostra società. E è stato bello perché, come dicevo, non viene dato spazio spesso durante le ore scolastiche, certo, perché greco, latino, inglese, tutte le materie che quindi abbiamo. Quindi a voi un po' manca, insomma, avete avvertito e questo, questa secondo distanza. Me, sì, questo manca soprattutto nella scuola italiana, perché sono tematiche importanti che comunque costituiscono la nostra società e, si sa, la società siamo noi, soprattutto noi giovani, comunque il futuro, certo, che avremo davanti E quindi venire a contatto, diciamo, questa sensibilizzazione all'economia, all'importanza comunque di quello che c'è al di fuori, le mura scolastiche o le mura di casa, perché comunque io mi ritengo ancora piccola, diciamo, ancora per quest'anno, vivere con i miei genitori. Però dall'anno prossimo si aprirà per me il mondo dell'università, quindi andare a vivere fuori casa. E quindi grazie a questi incontri, abbiamo fatto, mi pare, 4 incontri pomeridiani. Abbiamo letto questi articoli, ne abbiamo parlato assieme, abbiamo esposto le nostre idee. Comunque è stato interessante, è stato anche uno scambio di stimoli, diciamo, vedere un po' al di fuori di ottiche, quale sia molto ignoranti, secondo me, diciamo, in senso buono, purtroppo. Caterina, diciamo, ti è piaciuto quindi questa esperienza? Sì, mi è piaciuto tanto. Che condizionerà anche le scelte per l'università? Non è che ti scrivi economia tu? Già iscritta. Vedi? Diventa un'altra Debora anche sì, però ho fatto il test a febbraio, quindi per no, questo ho fatto il test prima di fare questo concorso. In bocca al lupo, Caterina. Era già predisposta. Lorenzo, invece, per quello che ti riguarda, questa esperienza che tipo di significato ha avuto per te? È stato, come dire, un modo per impiegare qualche pomeriggio, per cimentarti su tematiche nuove, per avere così anche una coscienza di quello che ci sta accadendo attorno, diversa? Beh sì, sicuramente, poi io sono ancora in piena fase di orientamento universitario, no? E tu sei un anno più giovane di Caterina. Esattamente, però è stato molto bello, è stato anche molto interessante la partecipazione al concorso, appunto anche per capire poi dove voglio andare a sbattere, e anch'io entro nel club e dovrei entrare a economia. Dovrei iscrivermi a economia il prossimo anno. Quali sono i temi che vi hanno colpito di più, affrontando anche questa strada di preparazione poi per il test che avete fatto ai fini del concorso? Beh, sicuramente è stato molto interessante il tema delle donne. Ci è stato spiegato il fatto che per le donne è molto difficile arrivare a posizioni di potere, anzi qualche volta addirittura vengono messe a comando quando la situazione diventa critica. Basti magari ricordare anche, per esempio, quando a Le Monde e al New York Times, le due direttrici che un paio di anni fa, forse 3 anni fa, sono state, durante la crisi editoriale, insomma, che è tuttora in corso, sono state messe al comando, sono diventate direttrici, e adesso invece sono state licenziate in tronco. Settimana scorsa tutte e due è toccato. Quando, no, ti direi di tenere sotto controllo la situazione, Nicoletta, che qua non si sa mai come finire. Quindi hai capito, Lorenzo è stato colpito dalla, come dire, componente femminile dell'economia, dal fatto che, insomma, ci si ricava ancora poco spazio nei ruoli strategici. Per quello che riguarda invece altri argomenti, ma poi sei preparato molto, hai risposto esattamente a tutte le 40 le domande? Così mi hanno detto, io assolutamente inaspettato il risultato, perché sì, mi sono preparato, però l'ho presa anche abbastanza alla leggera. Certo. E mi ricordo anche che sono stato proprio in piedi l'ultima notte per ripassare, però non ho poi approfondito più di tanto, e infatti è stato comunque un risultato interessante. Noi che siamo sfacciati abbiamo chiesto anche a Lorenzo se prende la paghetta, e abbiamo fatto lo stesso per Caterina, che non ha questo tipo, diciamo, di relazione economica con la famiglia, invece per Lorenzo c'è. È stato stabilito peraltro da poco, no? Sì, infatti sono riuscito a conquistarmela da un paio di mesi. Certo, che cosa hai fatto per conquistartela? Come hai impostato questa discussione in famiglia? Ma semplicemente prima era molto difficile ricevere, diciamo, finanziamenti, perché perché ogni volta sembrava appunto per un capriccio, mentre avendo già un budget stabilito a inizio mese, e riesco prima di tutto a gestirmela io. E poi, che cosa comprende la tua paghetta? Ma un pochino tutto, comprende divertimenti, comprende il telefono, sì, e comprende pranzi, cene quando voglio star fuori, per cui un pochino tutto. Certo, tutto quello che è fuori casa. Sì, tranne ovviamente vestiti, viaggi, la mamma. Sì, esatto. Vedi, la mamma. Bene, insomma, guarda che bravi ragazzi, noi siamo contenti. Grazie. Insomma, magari che saranno le nostre future classi dirigenti. Hai visto mai che fra qualche anno chissà dove ci ritroviamo Lorenzo e Caterina? Sì, ma noi intanto, non le auguriamo, ecco, intanto che si laureino con in bocca al lupo, ragazzi. Grazie. Adesso dovete farci questa gentilezza, con silenzio, consegnare le cuffie ad Antonio Caielli e Mirko Labella, che adesso altrettanto silenziosamente si avvicineranno. Sì, invece che changer la femme, changer la cuffia. La cuffia. Allora noi nel frattempo, per agevolare questo passaggio di cuffia, sentiamo qualche ascoltatore. C'è Marisa, anzi un'ascoltatrice, Marisa dalla provincia di Padova, che ci racconta un po' il suo pensiero sul tema di stamattina. Marisa, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, grazie per avermi richiamato. E senta, io volevo, così spero rapidamente, dare il mio punto di vista. E io sono stata un'insegnante per 35 anni, un'insegnante liceale, e vedevo con quale facilità spesso i ragazzi spendevano tanti soldi anche solo per la merenda, per le varie bevande così di conforto eccetera. E allora questo diciamo è secondario a quello che volevo dire principalmente. I ragazzi dovrebbero essere coinvolti dalle famiglie a capire, a essere consapevoli da dove vengono i soldi. Ah. Perché spesso c'è un uso che dei... Che nascono dalla pianta, insomma, come dico sempre io. Esatto, sì, e certe richieste, così vengono perché non si capisce da dove possono venire questi soldi. E quindi coinvolgere i ragazzi, coinvolgerli nelle scelte, spiegare perché una cosa si può comprare o no, e credo questo possa essere infinitamente educativo. È importante per il loro futuro poi da consumatori, da cittadini, insomma, che devono gestire poi un bilancio familiare. E in ultimo volevo aggiungere che a proposito di paghetta di cui avete parlato un attimo fa, io e mia sorella, io ho 64 anni, mia sorella 68, in tempi non sospetti avevamo la nostra paga settimanale, perché mio padre ci teneva, proprio io avevo 8 anni, mia sorella ne avrà avuto 10, insomma. E naturalmente era pochissimo perché la nostra è una famiglia molto semplice con pochi mezzi, e ancora di più ho apprezzato questa cosa da parte di mio padre e di mia madre, che ci davano appunto questo piccolissimo settimanale da gestire, e credo che sia stato importantissimo. Ecco, niente, però Marisa, no, ha fatto bene, grazie. Il tema è che i tempi sono un po' cambiati, no? Come vogliamo oggi insegnare il valore del denaro? Cioè Marisa dice dobbiamo rendere i giovani consapevoli da dove i soldi arrivano. Caglielli. Da quando sono piccoli i bambini bisogna farlo, sì, confermo. Il valore che ci sta dietro e il significato che ha, sì, sicuramente, confermo. Mi piaceva una cosa che ha scritto una persona prima, se posso riagganciarmi, a questo, che diceva io segno tutto. Sì. Allora, volevo dire a questo ascoltatore, calma, questo che insomma è stato tecnicamente studiato e io lo propongo, lo chiamo diario finanziario, anzi addirittura da un annetto a questa parte una persona mi spiegò come siccome siamo talmente tanto riconoscibili nelle nostre spese, nei nostri gesti quotidiani attraverso le spese, ho smesso di chiamarlo diario e lo comincio a chiamare specchio finanziario, perché ci siamo noi dentro questo elenco di cose che facciamo, con le nostre debolezze, con i nostri piaceri, con le coccole che ci vogliamo regalare. È importante però, attenzione, non possiamo entrare in un meccanismo in cui sentiamo l'esigenza di controllare tutto e farlo tutta la vita, no, è un percorso che si fa per un certo periodo di tempo per renderci, diciamo, per attivare la sveglia su certi comportamenti automatici e molto poco consapevoli. Quindi è un percorso che si fa, però è importante perché è la base di tutto quello che possiamo fare, di tutti i percorsi successivi. Uno dei primi esercizi che si fa è quello di evidenziare in queste spese quali sono realmente fisse per noi e ripetibili, poi quali sono variabili e riducibili eventualmente, e di far saltare all'occhio quali sono gli extra, perché senza togliere alcun piacere a qualcuno, quello che vorremmo fare è che mettere nelle condizioni una famiglia, una persona che ha bisogno di mettere mano al bilancio familiare, di riconoscere subito come ha speso i soldi fino a ieri e quindi di sapere come spostarli o addirittura come fare dei tagli, delle riduzioni. Tutto questo ci... Vedi, pensavo al dottor Labella perché ci sta e sta sorridendo perché lui sa che tutto questo è veramente un balsamo per il nostro cervello, e quindi, dato che abbiamo visto che l'uomo è un essere integrato, questo vuol dire che anche la nostra salute ci guadagna. Se è vero che questa crisi produce lo stress attraverso la disuguaglianza, no? C'è uno studio di un ricercatore che si chiama Norton, ha scritto un libro, Happy Money. E in questo studio lui ha fatto una ricerca molto molto seria, scientifica, e ha dato dei criteri su come imparare a spendere meglio i soldi per essere più felici. Esempio, in questa ricerca lui ha dimostrato come venivano consegnati dei soldi a due gruppi di persone. Un gruppo diceva spendili per te, e l'altro gruppo è spendili ma per comprare qualcosa a qualcuno. Non importa la cifra, che sia una cifra alta o una cifra piccola, è l'idea di poter far felice qualcuno. Allora, la differenza qual è? Il primo gruppo comprava delle cose e non era molto felice. Il secondo gruppo comprova delle esperienze con gli altri. L'essere umano è un essere sociale, il cervello funziona come una centralina wifi, quindi se siamo tutti connessi stiamo meglio. Allora il fatto di poter condividere esperienze positive genera una tempesta biochimica di emozioni che sono assolutamente antagoniste rispetto a quelle dello stress, e questo crea un circolo virtuoso. E infatti Caielli, sulle spese extra è più facile secondo me ridurre gli extra per noi, e per gli altri invece, per le persone a cui vogliamo bene, resistere è difficile. E mi rifaccio questo, mi ricollego al bambino che fa il capriccio, noi alla fine cediamo perché lo vogliamo rendere felici, sbagliando naturalmente, perché non sono solamente gli oggetti a rendere felici, non sono i giocattoli, ma perché è l'altro da noi, o l'altro che rappresenta veramente un grande posto nei nostri affetti, nella nostra mente, nel nostro cuore. Li gratifichiamo anche attraverso un gesto, un dono che poi si concretizza magari con le scarpette di marca, ma ecco, l'extra con l'altro diventa un pochino più difficile, no? Da tenere sotto controllo. Sì, è così. Quello che è sempre importante è capire che noi non dobbiamo tagliare gli extra, anche quando siamo in difficoltà. Capisco che non è immediatamente comprensibile questo, però una famiglia oggi ha bisogno di comprendere come le spese, come diciamo, al denaro è abbinato un valore di stare al mondo. Purtroppo non è facile, e quindi noi dobbiamo capire che per stare a questo mondo si crede comunemente di aver bisogno di oggetti diciamo riconoscibili, che sono il telefono, la maglietta, taglio dei capelli. Noi stiamo al mondo in questo modo, questo l'ho imparato proprio da Mirko Labella. Che c'entra questo con le spese? C'entra perché tutto questo ci costa, e quando siamo in difficoltà, ad esempio, quando vogliamo cambiare il nostro modo di spendere i soldi, non possiamo ridurre tutti gli extra e non possiamo tagliarci i nostri, ad esempio, a scapito di quelli degli altri, perché ci facciamo male. Senza accorgercene, noi ci facciamo male, e questo è importante. Come dicevamo all'inizio, quello che abbiamo bisogno di fare è coniugare una salute finanziaria con la salute fisica, diciamo così. E si può fare, ma con criterio, senza farci del male. Certo. Rischiamo di farcela contraria. Allora, fra un po' inizieremo a sentire la musichina di sottofondo, perché la nostra trasmissione volge al termine. C'è un ascoltatore che chiede, diamo un ultimo suggerimento finale, se c'è qualche app per controllare il bilancio familiare. Ce ne sono tantissime, io credo che ogni banca abbia fatto la sua, peraltro, sempre per tornare al conflitto di interessi di prima, però gli strumenti ne hanno messi a disposizione, ma per partire col semplice partiamo con Excel magari, no? Sì, anche con un foglio bianco, entrate, uscite, Caielli, e siamo a posto. Il quaderno, benissimo. Se si vuole davvero lavorare su questo, c'è una bella app che ha il limite di essere soltanto un diario delle spese, e con poca analisi, si chiama Menelao, è stato fatto per Android e per Mac. Benissimo, lo mettiamo su Facebook per tutti i nostri ascoltatori. Menelao. Noi torniamo a Milano, vogliamo rimanere qua? No, noi scappiamo a Milano. Purtroppo, perché mi fermerei volentieri. Ma torniamo l'anno prossimo, non è una minaccia, dai, ma una promessa. Assolutamente, allora. Così evitiamo anche di spendere, perché quando sei in trasferta... No, Trento è una tragedia, siamo circondati, assediate dai negozi. Grazie ad Antonio Caielli. Grazie a voi. Grazie a voi. Dottor Mirko Labella. A Gianmarco Ferronato, che in regia, esatto, la parte tecnica, Giorgio De Luca, in Davide assistenza. Ciocia, Elena Ligios, e a tutti quanti. E noi, ragazzi, vi auguriamo buon fine settimana.